Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Come sempre, fra poco avremo le notizie sul traffico, però non quelle solite. No, non sulla Terra, su Marte. Benvenuti a Mebius, adesso i titoli e poi andiamo su Marte. Lavora alla NASA e pilota i rover esploratori su Marte. Si chiama Paolo Bellutta, è italiano e ci racconta tutti i segreti di un lavoro così complicato e affascinante. Qual è la percentuale di gemelli sulla popolazione? Nei casi di isolamento geografico, la percentuale di parti gemellari può aumentare? Questi gli interrogativi di Maurizio. Le dipendenze del nuovo millennio. Slot machine, giochi online, shopping compulsivo e internet. Un centro all'avanguardia nel cuore delle Marche recupera e riabilita chi vuole uscire dal tunnel. Una malattia devastante, un decotto miracoloso a base di erbe e la regina Elena di Savoia. Questi gli elementi di un nuovo libro che racconta la vera storia di un guaritore bulgaro degli anni 30. Paolo Bellutta, buonasera. Ha posteggiato la macchina? Sì, abbiamo posteggiato la macchina. Più che la macchina, ha posteggiato il rover su Marte? Sì, abbiamo posteggiato, abbiamo tirato freno a mano, ho messo il disco radio. Ah, ecco, vabbè. Ci vuole il disco radio, c'è un sacco di traffico lì sopra. A parte gli scherzi, lui si trova in Italia, come sentite parla benissimo l'italiano, perché è l'unico italiano tra i 7 che lavorano alla NASA nel reparto autisti dei rover che sono su Marte, quindi di quelle macchine, di quei robot che noi vediamo, adesso ci facciamo raccontare bene questo suo affascinante lavoro, che vediamo nelle immagini che spesso la NASA ci restituisce. Insomma, è un lavoro, penso, affascinante, ma anche molto complesso. È abbastanza complesso, sì, dobbiamo immaginarci tutte le cose storte che possono succedere su Marte. Dobbiamo cercare di evitare di ficcarsi nei guai e perdere questo veicolo. Tipo, che guai? Qual è uno degli incidenti peggiori che dovete evitare? Beh, sicuramente, ad esempio, andare a sbattere contro una roccia o finire in un cratere, però ci sono chiaramente degli errori particolari, comandi che possiamo mandare che potrebbero danneggiare il veicolo, come ad esempio accendere il laser che abbiamo a disposizione e puntarlo contro il rover stesso. Com'è che avviene questa cosa? Il laser sarà qualcosa che servirà al rover per gettare, lanciare dei raggi fuori, invece può accadere che se lo punti addosso? Il software di bordo ci protegge contro queste cose qua, però non si sa mai. Questo laser qua è utilizzato per vaporizzare rocce e sabbia che vogliamo analizzare, una telecamera che può analizzare i vapori rilasciati dalla superficie del pianeta. Lei in questo momento sta guidando Curiosity, prima ci sono stati Spirit e Opportunity, ma volevamo capire, intanto fate i turni, non so come funziona. Il robot funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7? Lui lavora sempre. Noi adesso lavoriamo 5 giorni alla settimana, ci diamo chiaramente i turni. E io sono fra i pochi che ha continuato a lavorare anche su Opportunity. Spirit, poverina, la mia amica su Marte, non funziona più e ha smesso di parlarci nel 2010. Senta, velocità massima? Oh, non c'è niente di veloce su Marte. La velocità massima sono 150 metri in un'ora. Che però, insomma, sono utili. Volendo riusciamo ad andare più piano. Ecco, voi avete il ruolo, oltre che di controllare che appunto non vada a sbattere, che compia il suo percorso senza ostacoli, anche di analizzare quello che vi rimanda dalle immagini? Sì, noi analizziamo chiaramente solo la parte di movimentazione del veicolo, abbiamo degli scienziati che analizzano i dati scientifici raccolti dai vari spettrometri e strumenti di misura. Come si diventa autista di un Mars Rover? Ci vuole la patente di camionista, immagino. Si aiuta a vicenda, non è che ci sono delle scuole guide o dei libri che ti insegnano su come farlo, e quindi ci insegniamo a vicenda. Siamo anche coadiuvati da un gruppo di geologi planetari che ci danno un pochettino un senso del tipo di terreno che intendiamo percorrere. Ma avete fatto prove su Terra, immagino, no? Abbiamo fatto diverse prove su Terra, abbiamo due veicoli che possiamo utilizzare per fare queste prove e abbiamo un laboratorio all'aperto, abbiamo raccolto vari tipi di terreno, rocce, particolari tipi di sabbia per fare questi test. Senta Belluta, ma per vedere dove mettete le ruote, cosa avete? Delle telecamere che guardano sotto il rover, no? Proprio quasi a livello della Terra, immagino. Abbiamo delle telecamere puntate subito davanti e che riescono a riprendere il terreno circostante. Abbiamo anche una telecamera installata su un veicolo che è in orbita attorno a Marte e periodicamente riprendiamo delle immagini del terreno e quindi riusciamo a vedere esattamente dove è il veicolo. Avete una sorta di mappa? Una sorta di mappa, sì. E lei si trova in Italia perché sta incontrando anche i bambini, è stato recentemente al Museo di Scienze Tecniche anche a Milano. Ecco, immagino che per lei sia bello raccontare il suo lavoro ai bambini, ma loro credo che le facciano delle domande incredibili, anche loro siano affascinati molto dal suo lavoro come lo siamo io e Federico. Sì, è veramente incredibile parlare con i bambini, più piccoli sono e più ti fanno domande interessanti, ti chiedono se ci sono buchi su Marte, se piove, nevica, insomma loro vedono questo pianeta come se fosse casa loro. Come? Però non è scontato, insomma, no. Sapere che clima fa su Marte è interessante. Difatti abbiamo uno strumento che fa misure di carattere atmosferico, misure della direzione, velocità dei venti, temperature, cose del genere. Senta, lo guida con tipo come si guidano gli aerei, insomma, no? Non certo con un volante. Una cloche? Con una cloche. No. Noi chiaramente il segnale si impiega un minimo di 5 minuti, al massimo 20 minuti per arrivare. C'è il ritardo, certo. E non possiamo guidarlo in maniera interattiva. Quindi mandiamo una fila di comandi che il rover esegue e poi alla fine della giornata lavorativa si richiama e si dice cosa è successo. Cioè mandate dei segnali, vedete che cosa fa, capite che cosa fare come mossa successiva e rimandate dei segnali, è tutto così? Esatto. Quando torna in postazione? Probabilmente all'inizio di maggio. Speriamo anche che vada tutto tranquillo. I motori funzionano, sono motori elettrici con energia solare, no? Esatto, Spirit Opportunity utilizzavano pannelli solari per fornire energia ai motori e alle batterie, mentre Curiosity usa delle pile al plutonio per generare l'energia elettrica. Va bene, grazie, buona guida. Grazie davvero, buona guida e buon ritorno. Grazie. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ci sono dei paesini in cui vivono 600 persone, non di più. Allora, tu stai anticipando la domanda del nostro Maurizio di questa settimana, ma prima io ci tengo a ricordare tutti i contatti attraverso i quali gli ascoltatori possono criticarci, che non succede mai, o mandarci le loro domande come questa qua. O mandando le loro domande. Moebius@radio24.it. Ma anche su Facebook, Moebius Scienza, e poi il nostro cavallo di battaglia che è Twitter, Moebius_, vale a dire trattino basso, online. E ora la parola a Maurizio. Buonasera, abito in un paesino di montagna con poco più di 600 anime, di cui forse 500 autoctone del luogo, ed ho notato che ci vivono almeno una decina di coppie di gemelli, ma è una casualità o ci sono dei motivi genetici? Il paesino di cui parla Maurizio è Sormano, in provincia di Como, e quindi vogliamo capire con un nostro esperto che adesso introduciamo se veramente c'è qualcosa di genetico dietro o semplicemente una casualità oppure è normalità. Certo. E lo facciamo con un nostro esperto, Guido Barbuiani, che è genetista dell'Università di Ferrara, già nostro ospite, quindi bentornato. Buonasera. Buonasera Barbuiani. Ecco, allora, ci dica un po', secondo lei, questo 600 anime, di cui 500 autoctone, con una decina di coppie di gemelli, come siamo con la statistica? E io le voglio buttare lì un'altra cosa, mi era già capitato di ricordarlo in trasmissione. Conosco un paesino dove tutti hanno due cognomi e basta. Sì. Sono tutte cose che succedono, si possono trovare tantissimi altri aneddoti. Ma guardate, intanto non capisco bene cosa vuol dire 500 autoctoni, no? Perché in realtà tutti noi siamo un po' autoctoni, sì, e un po' no. Ma anche prendendo la cifra complessiva, 600 persone complessivamente, 10 coppie di gemelli, sono un po' più del 3%. Mm. Allora, in Europa le statistiche ci dicono che ci sono da 9 a 16 gravidanze gemellari per 1000 gravidanze. Mm. E quindi, insomma, dal 2% ci siamo, dal 2 al 3% dei nati vivi sono gemelli. Quindi ce n'è un po' di più in questa località, in provincia di Como, ma ci sono anche delle fluttuazioni statistiche in questi dati. E queste fluttuazioni capitano appunto soprattutto in località isolate. Se avete voglia di un esempio, sì, i finlandesi, che sono tutti discendenti di un piccolo gruppo di fondatori e che quindi fino a poco tempo fa, adesso sono milioni ma prima erano pochi, hanno una loro particolare configurazione nelle malattie genetiche, hanno delle malattie che nel resto dell'Europa sono rare o assenti e gli mancano malattie come la fibrosi cistica che nel resto d'Europa sono invece abbastanza comuni. In questo paesino, in provincia di Como, evidentemente c'è un tasso di gemellarità un po' più alto, quindi è una componente genetica senz'altro, no? La gemellarità si trasmette nelle famiglie, ma non direi che ci sia motivo di particolare allarme. Ecco, quindi c'è una predisposizione genetica nel parto gemellare? Sì, sì, questo lo si sa, perché nelle famiglie in cui c'è una donna che ha dei figli, dei gemelli, è molto più comune che una sua cugina, una sua sorella possa avere dei parti gemellari. Però non è una trasmissione ereditaria molto molto chiara come quella, non so, per esempio dell'emoglobina o della distrofia muscolare di Duchenne, in cui abbiamo capito tutto. C'è una maggiore o minore tendenza a fare figli gemelli, che è sicuramente genetica. La credenza popolare che si salta una generazione, per cui se la nonna è gemella sicuramente la nipote sarà gemella. Sicuramente lo toglierei senz'altro di torno. Poi sa, le credenze popolari tutte quante hanno una qualche base di osservazioni, quindi qualcosa di vero c'è, sì. E quasi mai in realtà la credenza popolare riesce a capire le vere basi biologiche di questi fenomeni. Solo che cosa succede? Che in un paesino di 600 anime 10 persone uguali si notano e allora uno ha la sensazione che ci sia un dato statistico diverso. Non solo, ma in questo paesino piccolo, se c'è una famiglia che ha la tendenza a fare i figli gemelli, questa famiglia avrà parecchi discendenti che sono tra di loro terzi cugini, quarti cugini, magari non se ne ricordano nemmeno, ma in realtà discendono tutti quanti dallo stesso antenato e quindi sono tutto sommato più omogenei in quanto non siano delle persone prese da una grande città. Ecco, infatti volevo fare solo una piccola divagazione proprio su quello che sta dicendo lei. Queste popolazioni che vivono un po' isolate geograficamente, anche possiamo prendere in considerazione ad esempio delle isole, magari piccoline, ecco, lì la genetica può giocare anche brutti scherzi, cioè mi riferisco al fenomeno dell'inbreeding, che le chiederei magari di spiegare, per cui magari può succedere che persone imparentate tra loro si possano accoppiare. Lì ci possono essere dei problemi dal punto di vista genetico. Sì, è quello che dicevamo prima della Finlandia, no? Con inbreeding vogliamo semplicemente dire che si sposano tra loro delle persone che sono parenti e noi possiamo essere consapevoli delle nostre parentele, però di solito oltre i terzi cugini non arriviamo, non ce ne ricordiamo più. Però dobbiamo sempre ricordarci che ognuno di noi ha due genitori, quattro nonni, otto bisnonni, 16 trisavoli e quindi le nostre genealogie si intrecciano tra di loro. La genetica ha la memoria lunga. La genetica ha la memoria lunga e quindi ci sono un sacco di persone che sono nostri parenti, anzi si potrebbe arrivare a dire che sulla Terra abbiamo 7 miliardi di parenti, perché poi se andiamo molto indietro questo è vero. Dal punto di vista delle malattie, quello che succede è che certe malattie ereditarie, che sono rare in generale, possono essere assenti in tante popolazioni, ma se in una piccola isola o in una piccola valle montana arriva un individuo che ha quella malattia, poi la trasmette a tanti discendenti che non ne sono consapevoli, si sposano con dei parenti di cui non sono consapevoli e quella malattia finisce poi per manifestarsi. Si propaga. Ecco, però è invece un'altra leggenda questa cosa che c'è da sempre, per cui se un fratello e una sorella si innamorano si riproducono più che altro e si riproducono necessariamente nel 90% dei casi mettono al mondo cose molto brutte e quindi mi pare che abbiate capito voi che non è vero che è così automatico. Quello che non è vero è il 90%, perché mettere una cifra esatta è molto molto difficile, bisogna essere molto specifici, però ci sono tante malattie genetiche, per esempio la microcitemia, che derivano dal fatto che due genitori che sono portatori sani trasmettono entrambi la tendenza a sviluppare la malattia a un figlio che a quel punto la manifesta. Quindi c'è qualcosa di vero nel salto di generazione e c'è qualcosa di vero nel fatto che se in una piccola comunità comunità entrano pochissime persone, anche solo una, che ha questa tendenza ereditaria, questa tendenza si può diffondere. E per questo, per esempio, giusto per restare al tema della microcitemia, che la microcitemia è concentrata in zone della Sardegna, in zone del Delta del Po, in zone della Sicilia, a Cipro, perché lì è arrivato qualcuno che aveva questa tendenza. Questa tendenza protegge dalla malaria, questo è un altro discorso che bisognerebbe fare, e quindi alla fine in quelle regioni si sono manifestate queste malattie che altrove invece non si sono manifestate. Sì, sì, diciamo la percentuale non è altissima, ma è una percentuale significativa. Chiaramente in un matrimonio tra fratello e sorella la probabilità di avere gli stessi geni patologici è più alta. È molto più alta. E quindi è probabile che un matrimonio tra fratello e sorella non produca dei buoni risultati. Però per esempio i faraoni egizi lo facevano e qualche volta gli è andata bene, qualche volta gli è andata male. Adesso non saprei dire se il 90% che lei ha... Certo, non sa la percentuale. No, la leggenda, come lei sa, è che si vada ben al di là di una malattia che si trasmette, ma che possano nascere deformazioni, come dire, corpi molto gravi, molto, no? Deformati, ma questo lo vediamo anche per esempio nei cavalli, no? Nelle linee di puro sangue ogni tanto bisogna introdurre qualche cavallo dall'esterno, perché altrimenti succede esattamente questo: alla fine sono tutti quanti imparentati e quindi saltano fuori degli individui con gravi difetti genetici e alla fine con delle gravi malformazioni. La scienza, la genetica in particolare, conosce molto bene i gemelli, nel senso che ovviamente è facile prenderli in considerazione perché non c'è molto da studiare, si vede, sono uguali, però spesso sono stati protagonisti della scienza anche in casi in cui, insomma, i risultati scientifici non erano proprio così... Sono stati un po' utilizzati, ecco, mal utilizzati. Ci sono tante storie di questo tipo, proprio per il motivo che dicevate voi, no? Che per scoprire dei difetti genetici bisogna fare analisi sofisticate, ma tutti noi siamo in grado di capire quando due persone sono identiche. C'erano le famose leggende, no? Su Mengele, che è fuggito in America del Sud, voleva produrre dei cloni di Hitler e faceva tanti gemelli. Era un medico nazista, era sfuggito all'arresto da parte dei russi, aveva avuto l'appoggio del Vaticano e quindi era riuscito ad andare in Argentina. Brutta storia. Sotto falso nome, e poi è morto, la sua tomba è stata scoperta e col DNA lo si è identificato. Nel frattempo si era diffusa la leggenda che in una certa località del Brasile, che si chiama Cândido Godoy, ci fosse un altissimo numero di gemelli e che Mengele fosse responsabile perché voleva produrre delle copie di Hitler. E invece... Dal punto di vista tecnologico negli anni 50 era impossibile, perché stiamo parlando di clonazione, la clonazione di una pecora è avvenuta nel 97, la clonazione umana non l'ha mai fatta nessuno, anche per motivi etici. È impossibile che Mengele fosse 40 anni più avanti della ricerca ai suoi tempi. Ma poi quello che è successo è che sono andati dei genetisti brasiliani a controllare a Cândido Godoy, e anche a Cândido Godoy c'era un 4% di gemelli, quindi più della media, ma non c'era il 20% di gemelli che i giornali avevano riportato. Un po' come a Sormano, del paese del nostro ascoltatore Maurizio, quindi il cerchio si chiude. Va bene. Si chiude, ma a Sormano non ci sono i nazisti, per fortuna. Ecco, no, per carità. C'è una semplificazione, sì. Va bene, grazie davvero professor Babuiani, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Buona serata, arrivederci. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Credo che lo scenario sia ben noto a tutti, un sacco di bar nei quali si entra e in un angolo ci sono 3, 4, a volte anche 5 macchinette, delle slot machine, ci sono addirittura dei bar che hanno dei piccoli sottolocali. Sì, adesso ci sono addirittura dei negozi. Poi ci sono dei centri interni. Sorta di piccola sala giochi in cui... Come se fossero dei piccoli casinò cittadini, e insomma stiamo per parlarvi di questo grave problema che è la dipendenza dal gioco. Gioco d'azzardo, in particolare questo delle slot machine. E anche se appunto legato alle nuove tecnologie che permettono appunto di giocare con molta più facilità di prima e anche appunto perdere molti più soldi di prima. Siamo ricorsi per trattare questo tema al centro San Nicola e qui abbiamo il dottor Vincenzo Aliotta, che è l'amministratore di questo centro, no? Buonasera Aliotta. Buonasera, io sono il fondatore di questo centro. E anche il fondatore di questo centro. Sono il fondatore. D'accordo, e lei lavora sulle dipendenze, il centro lavora sulle dipendenze in generale. Il centro lavora sulle dipendenze, su tutte, sulla riabilitazione extra ospedaliera, cioè al di fuori dell'ambito ospedaliero, dal problema delle dipendenze. Si trova sulle sulle colline marchigiane, giusto? Sì, siamo a una venticinquina di chilometri da Senigallia, nel comune di Arcevia, che è un comune montano dell'Appennino marchigiano. Vi abbiamo chiamato perché avete, come dire, delle cure anche un po' innovative, e adesso ne entreremo in dettaglio, però diamo anche il benvenuto al signor Rino, lo chiamiamo così, che è un ex giocatore e che però vi aiuta, è un vostro collaboratore, e adesso capiremo in che modo può essere d'aiuto ai vostri pazienti. Rino, buonasera. Salve, buonasera. Buonasera. Senta, lei da quanto tempo ha smesso? Lei che cosa faceva? Giocava molto con queste slot machine? Sì, giocavo molto con queste slot machine. Per quanto tempo, Rino? Ho giocato per quasi 14 anni. 14 anni. Io vorrei farle una domanda. A un certo momento la dipendenza, Rino, è perché uno vuole assolutamente guadagnare, oppure proprio subentra qualcos'altro che è vincere e non perdere, e però si continua a perdere e allora uno vuole vincere? La sfida con che cos'è? La sfida è con la vita, diciamo, non essere sicuro di ciò che uno vuole, non essere un po' troppo vulnerabili in questa nuova società che abbiamo. Quindi non facciamo altro che cercare gratificazione, in effetti, quando andiamo a giocare, aspettando il colpo grosso, cercando di cambiare la nostra vita. Diventa un po' una cosa irrazionale, un po' un'adrenalina che si rinnova di volta in volta e quindi non si riesce a smettere. Ma di base c'è una sorta di, non so, scontento o insoddisfazione, o ci cadono anche persone che in realtà sono soddisfatte dalla propria realtà? Hanno una vita normale, insomma, potrebbero avere una vita normale. A dire la verità, non c'è una classe sociale che si può dire, a cadere cadono tutti. Quindi io penso che oggi come oggi sia una delle malattie più gravi che ci sono, proprio per il fatto che non c'è classe politica. Una volta si diceva che chi giocava era quello là che non aveva abbastanza soldi, che voleva cambiare la vita. Oggi è diventato proprio, come dicevo prima, un modo di gratificazione per la gente, di essere felici, di uscire fuori dai problemi della vita giornaliera, della famiglia, essere insoddisfatti, in effetti. Ma si incomincia così, anche semplicemente, cioè ci prova e poi a un certo momento si è presi, no? Il problema del gioco compulsivo è che le prime volte che giochi vinci sempre. È da lì che dopo parte il caso è beffardo in questo, cioè. Quantomeno si ha l'impressione che le vincite siano sempre superiori alle perdite, forse è così, perché a livello statistico invece non dovrebbe essere così. Ci scusi, noi siamo un po' scienza oriented. Sì, è vero, esattamente quello che dici. In effetti all'inizio inizi a contare le vincite, poi le perdite non le conti mai. Ricordi, certo. Siccome, come diceva, la gratificazione non fa altro che farti pensare a quel momento in cui hai vinto quella volta, e non fa altro che continuare a cercare quella sensazione. Erino, a lei cos'è successo che a un certo punto ha deciso di smettere? Quanto giocava, peraltro? Io ho giocato tanto, sono andato in bancarotta 3 volte. 3 volte? E giocava quante ore al giorno? Giocavo dalle 10 alle 12 ore al giorno. 10-12. Era diventato un lavoro praticamente. Sì, mi credevo che era diventato un lavoro. Logicamente più si va avanti, più uno si crede che diventa professionista del gioco, ma invece non è così. Più vai avanti, più perdi, più ti porti di conseguenza. E come le chiedeva Chiara poco fa, a un certo momento ha smesso. Come ce l'ha fatta? Guardi, io ho conosciuto giocatori anonimi nella mia vita e mi ha cambiato... Che è un'associazione, mi scusi. Sì, è un'associazione che è nata in America il 13 settembre del 1957 da un signore che si chiamava Jim W. in California. È quasi, mi sembra, 67 nazioni differenti. Adesso c'è anche in Italia dal 18 dicembre del 1999, dove fanno un programma dei 12 passi, che sarebbe il metodo Minnesota. per uscire dalla dipendenza. Dove ci sono dei gruppi di autoaiuto che con le nostre esperienze ci aiutiamo a vicenda. Ecco, lei proprio da questa esperienza, ecco, presta, come dire, la sua consulenza proprio alla clinica del dottor Aliotta, che magari chiamiamo in causa e magari ci racconta un po' meglio questo metodo Minnesota, che un po' forse assomiglia agli Alcolisti Anonimi. Ce lo spieghi un po' questo metodo? Guardi, intanto Alcolisti Anonimi nasce in America nel 1935 e poi si diversifica negli anni a seguire. Questa associazione di autoaiuto è un'associazione che è basata sull'osservanza di un programma, che è un programma di 12 passi, e così si diffonde anche l'utilizzo del modello Minnesota in strutture riabilitative. In Italia, per la verità, noi siamo, se non l'unica, credo che a livello... Non sono poche. In che cosa consiste? 12 passi. Consiste appunto in un approfondito studio dei 12 passi, cioè l'ammissione della propria dipendenza, del proprio stato di dipendenza, la considerazione delle azioni negative susseguenti a questo stato di dipendenza, la capacità quindi di portare, non solo di autocriticarsi una volta che si è preso consapevolezza di essere dipendenti da quella sostanza o da quel comportamento, continuare un cammino di revisione e di ammenda nei confronti delle persone che sono poi vittime innocenti di questo comportamento. Aliotta, mi sembra che un aspetto chiave sia proprio quello che Rino ci diceva, del fatto di parlare con persone che hanno subito, che hanno la stessa esperienza. La forza di questo modello consiste anche nel fatto che, oltre che uno psicoterapeuta che generalmente non è dipendente, cioè è presente nel gruppo di pazienti affidati al terapeuta, è presente un facilitatore, una persona che è stata a sua volta dipendente e che diventa un counselor del gruppo e un counselor anche dello stesso terapeuta. Perché gli faranno un sacco di domande, immagino. Ah, un sacco di domande, soprattutto perché quella persona ha avuto e ha vissuto gli stessi problemi, le stesse situazioni che hanno vissuto e che hanno vissuto i dipendenti in trattamento. Ecco, Aliotta, ci dico una cosa importante, a noi sembra importante. Tra una dipendenza da slot machine, da macchinette, e un'altra che riguarda una dipendenza da droga, insomma, da farmaco. O d'alcol. Di fatto ci sono grosse differenze nel trattamento oppure no? O i meccanismi psicologici forse che ci stanno dietro sono gli stessi. Ma, guardi, sostanzialmente sia il dipendente da eroina, da cocaina, da alcol, che il dipendente da gioco d'azzardo, da internet... È una persona che ha un disturbo di personalità, questo è il denominatore comune. E chiaramente dal punto di vista poi terapeutico o psicoterapeutico, che le tecniche di recupero sono, dal punto di vista psicoterapeutico, sono le stesse, cioè in effetti sono delle tecniche che innanzitutto tendono all'ammissione e al riconoscimento del proprio problema e quindi a fermare automaticamente il comportamento e poi a analizzare le cause del problema. Quindi qui c'è una forte radice comune. Lei, Rino, ha giocato solo con le macchinette oppure a un certo momento faceva anche altro tipo di giochi? Guarda, io che sono nato con il poker a tavolo, ho iniziato così. Poi logicamente come è cambiato il mondo sociale sul gioco, così sono cambiato io, ci sono corso appresso. Senta Rino, però questo suo ruolo adesso ne è uscito, quindi di facilitatore, come diceva Aliotta in termine tecnico, le permette appunto di avere sempre a che fare con persone che come lei sono passate in quella situazione un po' drammatica. Vorrei che magari ci spiegasse un po' quali sono le sensibilità che lei ha messo in atto e riesce a trasmettere. Loro, sì. A me mi viene quasi facile perché logicamente sapendo qual è la malattia, che è l'incapacità e la mancanza di volontà di accettare la realtà o l'insicurezza emotivo o l'immaturità e il desiderio di avere delle cose buone della vita senza grossi sforzi da parte di me stesso, quindi questa è la caratteristica quasi di tutti i dipendenti. quindi partendo da quella base mi è facile colloquiare con persone che hanno avuto lo stesso problema come mio, e poi diciamo che si crea un qualcosa che anche dal dipendente, che pensa che l'unica persona che ti può capire quella è uno che ha fatto la stessa strada, esperienza. Tutto ciò comunque serve sempre anche un professionista che vi affianchi, questo l'abbiamo assolutamente capito. Settarino, lei diceva: io ho cominciato a giocare a poker, che però è un gioco con altri, mentre con la macchinetta il rapporto è veramente con nessuno e con una macchina, però a un certo momento, come dire, uno preferisce quello. Oggi sì, perché se è un tu po' vai più in facile, sale, è tutto preparato, la luce soffusa, ti offrono da bere, la luce delle macchinette, tutte queste cose non fanno altro che aumentare il tuo desiderio di giocare, quindi ci manca anche quella socializzazione che ci stava una volta, che magari giocando a un tavolo di poker ti facevi la battuta, dicevi qualcosa fra un amico e l'altro, diciamo che andava avanti così, mentre oggi sei proprio dedicata di fronte a quello schermo e non riesci a distaccarti, e poi c'è il fattore che ti fa dimenticare tutti i problemi che una persona ha, quindi si attacca a quello schermo. È quasi un'ipnosi, viene ipnotizzato. Sì, viene un'ipnosi, esatto. Sì, sì. Va bene. Grazie Rino, davvero in bocca al lupo per il suo lavoro. Insomma, noi ringraziamo anche il dottor Aliotta per la testimonianza. Fate un lavoro duro, sì. Certo. Quindi auguri per quello che fate. Grazie. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. State per ascoltare la descrizione di sintomi stranissimi e complessi e tutt'altro che normali. È l'encefalite letargica. Lo spazio si restringeva, il tempo rallentava. Era come se il corpo si trasformasse in una prigione, irrigidito su se stesso. Il volto inespressivo, lento, senza mimica, come una maschera. La pelle lucida, cerea, lo sguardo assente, perso lontano verso spazi indefiniti. Per contro, questa generale rarefazione della vita era stranamente contraddetta da segni esagerati di movimento. I globi oculari iniziavano improvvisamente a ruotare e la bocca si contorceva disegnando strani arabeschi, mentre la lingua si protendeva in tutte le direzioni. Oppure erano gli arti e il capo a scuotersi d'improvviso e a muoversi casualmente, tracciando archi bizzarri lungo percorsi privi di significato, senza alcun fine. Talvolta, poi, era l'intero corpo a essere dominato da un attacco epilettico. Questo è un passaggio del libro L'erba della regina, edito da Bollati Boringhieri. Qui con noi stasera c'è l'autore Paolo Mazzarello. Buonasera. Buonasera. Lei è docente di storia della medicina a Pavia e in questo libro racconta una vera storia molto affascinante, anche strana, su una storia di un decotto miracoloso, per cui appunto, come dice anche il titolo, c'entra anche una regina, la regina Elena di Savoia. Insomma, inizierei magari facendole raccontare un po' il canovaccio di questa storia vera, tra l'altro. Sì, dunque, diciamo che sono quattro i protagonisti. Da un lato la malattia, l'encefalite letargica, che esplode alla fine della Prima Guerra Mondiale, parallelamente alla spagnola, quindi è un periodo davvero di devastazioni terribili. E poi c'è un guaritore bulgaro, un guaritore popolare, che in maniera intuitiva individua una capacità terapeutica di un'erba che può essere sia velenosa sia appunto terapeutica, cioè la belladonna, e che applica proprio all'encefalite letargica. Quindi la belladonna, dopo il guaritore bulgaro, è il terzo protagonista di questo libro, e poi la regina Elena di Montenegro, cioè Elena di Savoia, che sposa Vittorio Emanuele III e che, diciamo, avendo la conoscenza del mondo balcanico e soprattutto avendo una grande passione per la medicina, importa dapprima in Italia e poi favorisce la diffusione di questa terapia a livello mondiale. Perché questa pianta, e quindi questo distillato della pianta, ha effettivamente capacità curative? Sì, Li ha in quanto la belladonna possiede una serie di alcaloidi, di sostanze chimiche psicotrope che agiscono nel sistema nervoso centrale. In effetti è una pianta che può agire anche nel parkinsonismo in generale, ma che è specificamente utile nel trattamento appunto di questa malattia, l'encefalite letargica, che si manifesta tra l'altro appunto con una sindrome parkinsoniana molto strana, molto atipica, con segni sia classici del morbo di Parkinson, sia segni poi particolari, specifici di questa malattia. Il nome scientifico è Atropa belladonna e lei nel libro la descrive così. La pianta racchiudeva l'intero arco dell'esistenza, la vita e la morte, l'eccesso e il difetto. Rivestita di un nome minaccioso e seducente, sospesa nell'ambivalenza della sua azione che l'avrebbe fatta impiegare come farmaco eccitante in Siria e come ipnotico in Egitto e in Nepal. La belladonna è stata variamente utilizzata come pianta officinale per i suoi effetti benefici, ma anche per provocare la morte. In quell'erba dall'aspetto gentile, quasi domestico, stava una forza potente e ambigua, come in tutti i veleni. Ecco, anche qui la duplice natura della pianta, ed è anche un po' questa duplicità di nature, viene ripresa spesso nel libro. L'encefalite, prima l'abbiamo sentita, è una malattia che rende immobile ma anche epilettici, così come la regina Elena era di origini bulgare, di origini contadine, che poi trasportata, diciamo, nel mondo occidentale diventa aristocratica. È tutto giocato un po' su questo mondo oriente-occidente, su queste bivalenze il suo libro. Ecco, cioè, l'ambivalenza direi che proprio esprime bene un po' tutta la storia raccontata per ogni protagonista del libro. Sì, la regina Elena è un personaggio che è appunto sicuramente affascinante, perché diciamo ha questa duplice natura, quella di appunto essere la regina di diventare la regina d'Italia, ma la grande passione per la medicina che la spinge a dedicarsi a tutta una serie di importanti opere benefiche, e quella per la promozione della cura dell'encefalite letargica, che è sicuramente una delle principali, al punto che poi ottiene una laurea honoris causa in medicina proprio per questa azione. E bisogna anche ricordare che dopo la Seconda Guerra Mondiale, mentre tutti gli istituti e le vie che portavano il nome di Vittorio Emanuele III cambiarono nome, giustamente, invece quelli che portavano tutte le vie e gli istituti scientifici, soprattutto, che portavano il nome della regina Elena, hanno mantenuto il nome. Ecco, proprio questo a far capire che la percezione che si aveva anche dopo un evento così tragico come la Seconda Guerra Mondiale di questa regina era del tutto positivo per le grandi opere umanitarie che aveva svolto durante la sua vita. Abile amazzone montenegrina. Se la sua essenza era legata alle rocce di quella terra inaccessibile e dura, il suo comportamento sapeva all'occorrenza essere diverso. Era davvero una contadina elegante, legata alla terra, anche se sapeva volare negli ambienti più raffinati, riuscendo a riunire nella sua personalità caratteri opposti. Aveva mantenuto uno spirito montanaro, nonostante la facilità con cui, all'occorrenza, sapeva muoversi nel mondo dell'aristocrazia. Subiva un'attrazione quasi sacra per la natura, le lunghe passeggiate e la pesca. Conservava il riflesso altruistico dell'infanzia, che la spingeva ad appassionarsi per la salute altrui. In questa dimensione stava l'interesse per le attività assistenziali e benefiche. Non solo la medicina ufficiale, ma anche considerazione per i rimedi popolari della sua terra. Non vi era rimedio singolare che non la attraesse, affascinata com'era dall'arte del curare. Non faceva distinzioni, in un continuum che andava dalla medicina ufficiale a quella popolare. Paolo Mazzarello, però, dal punto di vista terapeutico, invece, come siamo messi con questa malattia e soprattutto come si era messi allora? Di fatto veniva usato questo farmaco oppure c'era già altra roba? No, dunque, si era provato ad utilizzare l'atropina, che è un estratto appunto di questa belladonna, però da sola la sostanza non funzionava altrettanto bene che l'estratto completo dalla pianta. E quindi la cura bulgara diventa in effetti la cura ufficiale dell'encefalite letargica in tutto il mondo sostanzialmente, proprio propiziato proprio dalla regina Elena. Anche perché si impegnò fortemente per la costituzione di centri per la cura degli pazienti encefalitici, post-encefalitici con questo estratto e venne supportata in questa azione da moltissimi medici che si resero conto che in effetti il preparato, il decotto funzionava molto bene. Poi verso la fine degli anni 30 si prepararono anche dei prodotti sintetici composti sostanzialmente dagli estratti dei singoli componenti della belladonna. Fino a quando fu usata? E adesso cosa si usa? Dunque, la belladonna venne la cura bulgara, venne utilizzata appunto per tutti gli anni 30, gli anni 40 e anche dopo la guerra. Io ne ho sentito parlare da un professore di neurologia di Pavia che mi raccontò appunto di questo reparto encefalitici presente all'Istituto Neurologico di Pavia, all'Istituto Mondino. I pazienti encefalitici lentamente poi scomparvero perché l'epidemia si manifestò con un episodio notevole alla fine della Prima Guerra Mondiale, nei primi anni 20, e poi lasciò la lunga sequela dei pazienti post-encefalitici che raggiunsero poi fino agli anni 70. E gli ultimi di questi pazienti ancora vivi negli anni 70 vennero poi trattati con la levodopa da Oliver Sacks, ma erano oramai pazienti estremamente cronicizzati in cui nessuna terapia nelle fasi finali di questa evoluzione della malattia risultava positiva, e con la levodopa per qualche giorno o per qualche settimana i pazienti risposero alla somministrazione, ma poi riprecipitarono nella loro condizione drammatica. Ecco, ma Oliver Sacks in Risvegli, poi è stato ripreso anche da un film, mi pare, perlomeno nel film, sono perennemente assenti. Addormentati, mentre invece no, ci sono degli episodi invece di eccitazione. Esattamente, dunque i pazienti post-encefalitici vennero curati appunto negli anni 30, negli anni 40 molto bene e miglioravano nettamente con il trattamento con la cura bulgara. Poi però nelle fasi più avanzate della malattia precipitavano in una sorta di limbo, di cristallizzazione delle condizioni neurologiche e precipitavano in una sorta di, chiamiamolo, nirvana, per così dire, psicologico, del tutto assenti e del tutto bloccati da questa malattia. Questi pochi pazienti ancora viventi negli anni 70, gli ultimi di questi pazienti, furono proprio quelli trattati da Oliver Sacks con la levodopa. Sì. Ma la funzione che ebbe la levodopa fu estremamente transitoria e molte volte drammatica, appunto con eccitamenti maniacali e con comunque un carico di sofferenza non indifferente. Sì, fu un'avventura un po'... Non particolarmente brillante, certo. Sì. Un aspetto interessante che mi preme sottolineare è il fatto che l'interesse della regina Elena per questi ammalati portò alla fondazione in Germania di un istituto che porta tuttora il nome di regina Elena per il trattamento dei pazienti parkinsoniani. E grazie proprio a questa iniziativa probabilmente la categoria di pazienti che evitò le famigerate disposizioni di Hitler per la soppressione dei malati terminali negli anni 39 furono proprio i pazienti, diciamo, ricoverati in questa casa di cura, perché avevano comunque l'ombrello protettivo della regina Elena, e quindi era difficile anche per i medici tedeschi applicare queste decisioni, certo, quando appunto un personaggio così importante si era occupata positivamente di questi pazienti e si salvarono. Va bene, allora ricordiamo il titolo: L'erba della regina, storia di un decotto miracoloso, edizioni Bollati Boringhieri, e ringraziamo Paolo Mazzarello, l'autore. Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci. C'è un'erba, bel ragazzo, lo vuoi provare? Bell'uomo dovresti bell'uomo. Dire, ha troppa bell'uomo. Vabbè, allora, purtroppo Federico finito. Non abbiamo più tempo. Alla prossima settimana, tutti qui con Möbius fra 7 giorni. Buona settimana a tutti.